dei poveri. E allora ho pensato di fare così, raccogliendo non le lezioni di questi due giorni, ma i problemi che sono emersi. Sono stato attento un po' alle obiezioni, alle domande. Io avrei, ecco, come modesto lettore e uditore, raccolto quelli che mi sembrano quattro problemi sentiti da noi, quattro domande, però non sono mie, sono domande emerse nel dibattito, nella reazione di questi due giorni. Io le propongo ad alta voce, non come mie ma come emergenti dell'Assemblea, che potrebbero anche esprimere un orientamento di frutto di queste due giornate. E queste domande io poi le lancio, diciamo, ai quattro, cinque che sono intervenuti, per vedere se essi o l'una o l'altra o la terza o la quarta le recepiscono e rispondono. Allora, la prima domanda, che potrebbe essere il problema che è emerso, mi pare, ecco, riprendo qualche cosa del professor Alonso. Si può pensare, ecco, date i nuovi tentativi di esegesi, di lettura della Bibbia, che ci sia l'emergenza di novità nel senso? Si potrebbe parlare di incremento di senso? Abbiamo sentito la lezione sullo strutturalismo, che diremmo con Ricoeur impedisce l'emorragia di senso, cioè una lettura che fa scaturire troppi sensi, troppa novità. Ma la domanda rimane quella, perché mi sembrava, ecco, dalle parole del professor Alonso e che si possa parlare di, almeno in qualche settore della Bibbia, di possibilità di sviluppi di senso, cioè non saremmo solo di fronte a applicazioni fatte dopo l'esplicazione, ma a un processo di sviluppo di senso che è già dentro almeno alcuni tratti della Bibbia. La domanda è, sono pochi, alcuni, solo i tratti dove scopriamo il simbolismo, entro questi tratti? A me sembra che possa essere importante questo discorso. Personalmente, come deformato da teologo, lo vedo analogo a due grossi problemi. Quello del revelabile rispetto al revelatum. Cioè, lungo la storia della teologia scolastica ci si è domandato se sia parola di Dio non soltanto ciò che di fatto è rivelato, ma da ciò che potrebbe essere svolto dalla rivelazione. Il grosso problema, per esempio, della definibilità, se la Chiesa potrebbe definire come parola di Dio il solo rivelato virtuale, si dice. Cioè praticamente la possibilità di un incremento di senso nell'accostare la Sacra Scrittura e la parola di Dio. Un primo problema che mi sembrava emergente da una domanda, o almeno in modo così. Un secondo gruppo di problemi. Se eventualmente si possa rispondere di sì al primo problema, nasce allora la domanda: qual è la ragione che spiega la possibilità di approfondire e sviluppare un senso biblico fino a portarlo ad un ampliamento che non è più plenior, senso plenior, ma proprio incremento interno al senso? E qui io prendo piuttosto l'obiezione, la domanda che è venuta fuori la prima giornata da il professor Rizzi in rapporto alla lezione, cioè: è sufficiente trascendere un singolo passo per la qualità linguistica della Bibbia? O è necessario trovare un criterio di cosa più alto? È sufficiente la cosiddetta analogia biblica a livello testuale? O bisogna far leva su qualche cosa di più alto? Ecco il tema di Dio autore primario, oppure lo spirito, pneuma, eccetera. Questo è il secondo gruppo di problemi che vedo emergere dalla prospettiva di Rizzi, almeno come domanda, in rapporto alla prima relazione. Una terza problematica potrebbe essere ancora più, che ho visto che ha scandalizzato alcuni in senso buono, provocante. Cioè, la Bibbia e la parola di Dio deve essere letta anche a livello storico in maniera, diremmo, da presupporre un'evoluzione in positivo, quasi automatica, di una crescita, o deve essere letta facendo attenzione a rotture, a varietà di filoni, a discontinuità, addirittura abbiamo sentito al peccato, l'ambiguità fino alla comunità peccatrice. Cioè, questo accostamento alla Bibbia è un accostamento che ci impegna a sviluppare qualche cosa come un germe solo in senso evolutivo positivo, o ci impegna a guardare a un cammino dove ci sono involuzioni, discontinuità, rotture, eccetera. E soprattutto se si accetta che si possa fare un'esegesi che scioglie delle ambiguità e scopra, contestando quasi la Bibbia stessa, fino a livello di non demitizzazione soltanto, ma di demistificazione, le ambiguità, in base a quali criteri si ha diritto di far questo? Ecco, mi sembra, ecco, da profano, che in questa maniera ormai si superi il puro criterio delle intentio autoris, cioè non viene sacralizzata la intentio autoris fino al punto da dire è parola di Dio ciò che l'autore ha inteso dire, ma si va addirittura a criticare qualche volta l'intentio autoris fino a vederne nei contesti l'ambiguità o nella stessa sua modo di nella stessa presentazione una certa, diremmo, zona di non senso, di non coerenza con il senso inteso. Questo era il terzo. Il quarto, che sorge più, diremmo, anche dalla giornata di oggi e anche da ieri, mi sembra di aver sentito più volte questa domanda. Padre Alonso ha parlato di un'esegesi che per interpretare un testo non deve soltanto cercarne le cause, leggerlo alla luce delle sue cause, ma anche dei suoi effetti. E ha fatto spesso appello all'aspetto appellativo e performativo del linguaggio biblico. Poi anche questa obiezione: si può considerare esegesi autentica quella che fa la storia delle interpretazioni vissute, cioè il dopo, in che misura è una lettura del passato? Ecco l'aspetto di lettura attiva di cui si è parlato in questa sera, di lettura per la quale uno quanto più sa, ha detto lui qui, tanto più fa dire al testo. Ecco allora la importanza, diremmo, del lettore e anche della cultura e della crescita della sua cultura, della sua capacità. Ecco, io ho cercato di cogliere queste quattro, diremmo, problematiche che sembrano emergere un po' dall'ora, dall'una o dall'altra. Mi scuso se ho preso magari più da Rizzi in un certo senso, ho preso più dal professor Alonso, ma mi sembrava che queste quattro domande sono un primo avvio della discussione. Potrebbero anche apparire come problemi emergenti da queste due giornate. Io adesso le smisto e ciascuno dei quattro intanto relatori, che noi ringraziamo già in partenza per tutto quello che hanno detto e quello che faranno, perché tutti siamo stanchi un po' stasera, ma specialmente loro, allora ciascuno prenda quello che vuole di queste quattro domande, eventualmente nella misura in cui esprime una sua opinione si rivolga all'altro per contestare l'altro, ecco, in modo che se uno ritiene che questi problemi emergono più dalla posizione di un altro, risponda e provochi più quest'altro. Ecco, mi scusate di questa introduzione. Allora, cominciamo, non so, da chi? Dal professor Krenner, che è stato il primo? Prima vorrei i quattro, sentire se vogliono. Certo, ma dei quattro, in quell'ordine in cui preferisco. Ecco, loro, no? Se lei preferisce ultimo, la lasciamo anche ultimo, professor Krenner. Dare quando si chiede a me, certo, che per accogliere il senso di un passaggio della Sacra Scrittura ci bisogna di non leggere soltanto questo piccolo passaggio, ma vederlo sempre nella totalità. E io dico, qui sono vari giri. Per esempio, se io leggo un testo nel Vangelo di San Giovanni, io devo prima non soltanto leggere questo nel capitolo sesto, ma devo leggere questo in tutto il Vangelo di San Giovanni, incluso il capitolo 21. Devo raccomandare qui una riflessione di professore Schlier, che è morto l'anno passato nel festo di Santo Stefano. Lui ha detto l'ordine adesso nel Vangelo di San Giovanni, non quello di Bultmann ricostruito, ma quest'ordine che noi siamo nel metodo sincronico. Certamente ha un senso e bisogna di trovare perché i capitoli 5 e 6 hanno questo ordine e non l'ordine originale. E dopo il Vangelo ci devo prendere i 4 Vangeli perché uno uno scuola e poi tutta la Bibbia, e io penso che oltre la Bibbia tutta, e questo è che lo pneuma su lei, la vita della Chiesa. Per me pneuma non è soltanto questa grazia interna, ma è lo Spirito Santo come viene concretizzato nella Chiesa. E qui anche mi parla in vari giri, il canone della Sacra Scrittura, poi i padri della Chiesa, i concili, e specialmente anche la liturgia, Lex Orbandi, Lex Credendi, e come ha mostrato anche il professor Reger in suo libro, la vita dei santi, come Buonaventura sempre ha detto, la vita di San Francesco è quasi una regola per leggere la Sacra Scrittura. Questa ovviamente una domanda, una risposta a questa domanda. Grazie padre. Posso forse interrompere solo una osservazione di consenso? A completamento, ho presente un testo di Agostino che dice presso a poco così, questo concetto lì ha detto pneuma. Agostino questo totum lo intende il corpus Christi, dicendo che intelligit corpus caput suum e predicat corpus caput suum. Ma forse lo intendeva in una maniera un po' statica. Io questo corpus Christi intenderei la Chiesa di tutti i tempi, la Chiesa della storia, però lo portava fino al corpus. E per Agostino, questo in base alla mia tesi, per la mia sotto la direzione di padre automatico, da Agostino corpus Christi non è lo stesso, non è lo stesso come per San Paolo. Perché San Paolo, corpo di Cristo, è il corpo della Chiesa dopo Pasqua. Ma per San Agostino, corpus Christi comincia già con il giusto avere. È giusto all'inizio del mondo, questo è un pochino là, e la Bibbia. Io penso che noi dobbiamo integrare questo, e poi dire anche qui nella teologia protestantica, per esempio Peter Schumann segue questo metodo e riesce a fare in quei giorni una ermeneutica di Peter Schumann nella collezione Das Neue Testament Deutsch Ergänzungsband. Mi pare che è già annunziata una ermeneutica di Peter Schumacher, e lui sempre, come anche nel suo libro Wege zu einer biblischen Schriftauslegung als Weg zur biblischen Theologie, ha anche già promulgato questo quasi principio da libro cattolico. Posso osservare che anche nell'ambito ecumenico ormai a livello di tutte le chiese si arriva a questo criterio. Tutta la tradizione luce per capirlo. Però rimane la domanda che io posso nel primo punto, cioè se questo criterio di allargamento dei soggetti porta a scoprire che queste inclusioni, questi nuovi sviluppi sono sempre sviluppi dello stesso senso, se sono aggiunte, se c'è un incremento di senso. Allora, professor Alonso. Penso che il problema è un problema molto di fondo, del problema di noematica o di gnoseologia, una questione di ermeneutica. Cercherò di riassumere quella teoria un po' di Gadamer. Penso che il Bultmann ha fatto contributi importanti all'ermeneutica nell'idea della precomprensione e nell'idea della interpellazione, sono contributi. Però la visione di Gadamer mi sembra più integrata, più sistematica, più importante. Allora, Gadamer è in quella corrente che vuol superare la vecchia impostazione positivista che parla in termini di oggetto-soggetto opponendo l'oggettività, la soggettività, quella passione di oggettività, di distacco, eccetera, che alla fine è basata sul grandissimo assioma che si può vedere una cosa senza punto di vista. Questo è il grande assioma della oggettività positivista. Punto di vista, no? Si può guardare senza essere in un punto da dove si guarda. Questo è il presupposto non confessato e non criticato del positivismo, che propone il problema in termini di oggettività, non oggettività, oggetto-soggetto. Questo movimento filosofico si è cercato di superare quella opposizione, quella sfiducia del credere, del leggere, quella che è eredità kantiana, eccetera. Allora, la visione di Gadamer, lui cerca un altro accostamento, e per lui e per molti altri, un atto dello spirito, come è un sonetto, non so, un poema di autore Isaia, un dialogo di Platone, è un atto storico dello spirito, non è un oggetto della scienza fisica come un mattone, come un pezzo della luna che è sottomesso all'analisi spettrografico, eccetera. È una comunicazione, è un senso che viene realizzato ma non finito. È essenzialmente natura sua comunicazione interpersonale. Pertanto non si può parlare di senso in sé, a sé. Se non c'è senso per, se nessuno mi ascolta è inutile, no? No. Ma il senso è lì, questa è una falsità. Perché il linguaggio è dialogale, natura sua. Non è una cosa che io parlo, è tutta fatta, e allora viene l'altro. No. Il dialogale è costitutivo del linguaggio. E lì viene risolto il problema dell'oggettivo e soggettivo. Perché sono due spiriti che già sono basi comunicanti prima di parlare. Lì e nell'interpersonale c'è un grande sforzo di superare l'opposizione. Orbene, il testo si entra non nella categoria di oggetto fatto, finito, col suo senso plasmato, immutabile, eccetera, ma forse qualche parte del testo, alcuni testi sono più vicini, ma un dialogo di Platone, un sonetto di Petrarca, di Dante, non è così. Il testo è un fatto di comunicazione che diventa. È sempre actu. Lì è soltanto impotenza, ma impotenza finita, no, impotenza. Actu c'è comunicazione. Vuol dire che sempre quello che riceve è impegnato nella trasmissione. E mai, io sto parlando qui, e non ci sono due di tutto quel gruppo, viceversa, che prendano, capiscano quello che io dico esattamente al 100% nello stesso modo. Quello che sto dicendo adesso è un senso fatto, e non di meno ci sono 30 sensi, cioè con sfumature, con varietà. Perché? Perché percepire il senso non è passivo, è impegno interpersonale. Cioè qui entra il grande principio del dialogale che dopo passa al dialettico. Bene, quando la situazione ideale del senso comunicazione, non un artefatto, è qualcosa di più, e il dialogo vivo. Questa è la situazione ideale. Però c'è un testo storico, è stato scritto 2000 anni fa, è finito. Se qualcuno aggiunge una parola, sia anatema. Se qualcuno toglie, sia anatema. E lì è già concluso e fatto. Bene. Allora, cosa deve fare il lettore, l'esegeta, la comunità portante? Riportare il testo alla situazione dialogale. E accostare il testo come un atto dello spirito che vuol comunicare, però che soltanto comunicherà se io entro nel gioco, non un spettatore del pubblico neutrale, devo entrare. Quell'entrare, necessariamente io entro nel testo nel mio momento storico, 1970-80, nelle mie preparazioni, eccetera, cioè col mio orizzonte. Però nella situazione dialogale comincia il dialogico e il dialettico. Cioè, io porto il mio orizzonte, il testo ha il suo orizzonte, quello storico, ma non soltanto quello storico. E c'è una dialettica, un contrasto. E di quel contrasto emerge un processo fino alla fusione degli orizzonti. Però lì il lettore deve essere disposto ad essere criticato dal testo. Quello che non può fare il lettore è avere la domanda al suo orizzonte già fatta perfettamente, il testo mi risponde, ah beh, no. Io ho una domanda, ho 5 domande, ho 20 domande. Quali sono? Quelle dall'uomo cristiano, quelle dell'uomo? Io vengo e ascolto. E faccio una domanda e il testo mi risponde dicendo male la domanda, la domanda è male proposta. Devi cambiare la domanda, non ti rispondo a quella domanda. Quello fa Gesù costantemente. I farisei fanno una domanda e dico, non è questa la domanda, non si tratta di fare per avere. Falso. Non risponde Gesù al ragazzo. No. Cioè, io devo essere disposto umilmente a lasciarmi trascinare, capovolgere, criticare nel mio orizzonte del testo. Questo elemento dà una certa sovranità, un rispetto al testo come un alter. E non sono io il padrone del testo per prendere, per decidere, ma sono esposto. Anche il testo è esposto al mio orizzonte, perché se no non sono niente. E è lì che la comunicazione diventa e che il senso diventa. Però allora è puramente soggettivo? No, questa è l'oggezione che fa il positivismo. Che non sa pensare se non in termini di oggetto-soggetto. Non sa pensare e allora non c'è dialogo. No, perché nell'interpersonale non c'è soggetto-oggetto. Ma è vero che ci sono elementi che possiamo chiamare oggettivi, cioè che lì c'è un sistema di linguaggio, eccetera, e in una epoca determinata c'è tanti elementi, la prima cosa che devo fare è ascoltare. Però è un ascoltare non a vuoto, è un ascoltare. Bene, questo vuol dire che qualsiasi testo importante, perché sono testi banali, no? Qualsiasi testo importante della cultura è portato da una comunità, non esiste in se stesso, se un testo non è letto è un mattone, è portato dalla comunità, ma la comunità in qualche modo è quella che fa nascere, venire fuori il senso. Come entra questo nell'idea della fine della rivelazione, dell'ispirazione, eccetera? Molto semplice. Dio ha voluto parlare agli uomini. Noi abbiamo come fede, no? A noi arriva la parola di Dio in forma di testo, non in forma di un Isaia vivo, perpetuamente vivo, pronunciando e spiegando qual è la sua intentio autoris. A me la parola di Dio arriva nella forma letteraria del sonetto di Petrarca, nella forma letteraria del Hamlet di Shakespeare, del più o meno, in quella forma. Vuol dire che quando Dio parla con la comunità, parla nel medio, medium, medio mezzo, mezzo, no, medio, mezzo. Nel mezzo del linguaggio, non del linguaggio qualsiasi, ma del linguaggio configurato in forma di testo donato a una comunità nello sviluppo. Pertanto che nella volontà di Dio è che la sua parola sia attuata così, non attraverso un intenso autore, su uno che sta parlando e gli possono fare domande e chiarimenti. Ma lui, Dio si impegna, si espone, accetta il rischio della storia della sua parola. Non so, questo è un po', come vedete, è un'impostazione che è diversa. E se vogliamo forzare, ma è oggettivo o soggettivo, va bene, in questa terminologia non c'è via di uscita. Allora, ma se ci mettiamo quella terminologia, allora prendiamo l'argomento ad hominem. Se si insiste su quell'impostazione oggettivo-soggettivo, allora io argo ad hominem. E allora il positivismo, che si vanta di neutralità e di non avere pregiudizi, non avere niente, è fondato sull'assioma fantastico della assoluta oggettività, il quale è una fantasia purissima. Cioè, è la cosa più pregiudicata, è il positivismo, che mai ha dimostrato quel presupposto di base. cioè che nel fatto dello spirito ci sia quella oggettività totale e piena e il distacco totale. Contribuisce qualcosa alla domanda? Ma sarebbe la linea di Gadamer, che va molto oltre il... Ma adesso è vero che il simbolo è un momento privilegiato di questa crescita. È un momento privilegiato, non unico. Perché? Perché alle volte tutto un libro diventa simbolo. Per esempio, le Metamorfosi di Kafka. La intenzione di Kafka qual era? Beh, una Alpendruck, una... come si dice in italiano? Incubo. Un incubo, no? Un sogno di questi, un incubo. Questo Kafka, Metamorfosi, Samka. Va bene, Kafka ha detto quello che ha voluto. Il suo romanzo, la sua novella, il suo racconto è simbolo di un'esperienza dell'uomo del secolo XX, dell'uomo insetto, questo sistema organizzato. Il Quixote, ma Cervantes non ha voluto, non mi importa se non ha voluto, non ha voluto. Il Quixote è lì un simbolo di un'esperienza umana. Cioè, vedete che il simbolico può investire tutto un libro, tutta una figura, tutto un personaggio. Un po'. Grazie Pan, sì. Rizzi, se vuole. Sì, io aggiungerò alcune cose, proprio ma sulla scia di quello che ha detto il padre Alonso, che diverse delle cose che ha detto lui avrei voluto dirle io, e quindi invece così le ha dette anche molto bene, con una verve. Ecco, allora, su questo piano, adesso così un po' frammentariamente. Di solito io preferisco oggi sottolineare l'oggettività del testo, intesa appunto come quel momento di comunicazione da parte di un soggetto, una comunicazione che è avvenuta e che è sempre aperta, comunicazione a qualcuno, e che si riapre ogni volta che qualcuno riprende in mano un testo, a differenza della comunicazione orale, no, che è proprio legata all'evento temporale, così. Questo proprio per evitare il pericolo, normalmente mi pare, almeno negli ambienti che frequento io, cioè comunità eccetera, il pericolo non è quello di un eccesso di oggettività del testo e di tecniche, è proprio quello del prenderlo così, appunto, allegramente eccetera, no? Ecco questo. Nel caso della Bibbia mi pare poiché, ecco, dunque, oggettività che vuol dire allora anche normatività nei confronti del lettore, cioè appunto il lettore di fronte al testo, interpretare non è inventare, ecco, no? Il lettore non è nella posizione del produttore del testo. Il lettore è proprio normato, è comandato dal testo e tutta la sua creatività è al di dentro di ciò che già nel testo, ecco, è contenuto. Quindi c'è questa normatività di ogni testo, anche di una pagina di giornale, no? Di quel che io sto dicendo in questo momento, no? Quando io parlo, quando ognuno parla, vuole essere capito per quel che dice. Sa che poi ognuno lo capirà in maniera sfumata, eccetera, eccetera, eccetera, però ecco, si aspetta di non essere totalmente frainteso, no? Si aspetta di, questa è la normatività del testo. Nel caso della Bibbia poi c'è la normatività specifica di un testo che noi riteniamo essere parola di Dio, cioè di un testo che non è solo normativo per il mio ascolto, capire quel che ha detto, ma poi normativo per la mia esistenza. Normativo in quanto donatore di senso alla mia vita e appellante a una risposta di questa vita. Ecco. Ed è appunto quel testo. Ho l'impressione che alcuni dei problemi, delle obiezioni che vengono fatte, ecco, a questo primato del testo e a un richiamo, ecco, della libertà dello spirito, obiezioni tipo anche ma allora il semplice fedele che non ha gli strumenti per leggerlo, ecco, lo spirito soffia dove vuole, ho l'impressione di che questa obiezione sovrapponga o confonda due problemi diversi, e cioè da una parte il problema della salvezza, tukum. In altre parole, Dio salva anche al di fuori della lettura della Bibbia, almeno io credo. Ecco. La Bibbia non è il luogo assoluto ed esclusivo, il veicolo assoluto ed esclusivo della salvezza. No? Lo Spirito parla anche attraverso il mondo, attraverso gli incontri, eccetera, eccetera. No? Ma quando si tratta di leggere la Bibbia, allora ecco, chiamare in causa lo Spirito non può più voler dire che far ricorso a qualcosa che, per così dire, si aggiunga al testo e possa anche permettersi la libertà di aggirarlo. Non so se mi spiego, no? Lo spirito salva anche al di fuori della Bibbia, ma quando lo spirito è chiamato in causa come principio per capire la Bibbia, quello spirito non può far altro che illuminarmi sul senso del testo, che è spirito ermeneutico. Per cui non può essere lo spirito che così mi illumina in maniera tale che io apro la Bibbia, leggo e mi viene in mente, no? Così, no, ecco, non può essere questo. Cioè, anche qui, no, lo spirito può servirsi anche di questi fraintendimenti per così, ma allora come tutto, no? Ma in quanto è spirito ermeneutico, è lo spirito che rivela, ecco, delle ricchezze di senso nascoste nel testo che così, che una semplice lettura, eccetera, eccetera, eccetera, cioè proprio crea in me quella connaturalità che mi apre positivamente il testo. Detto questo, sottolineato un po', risottolineata questo momento del primato del testo, ecco, mi sembra che vada appunto ribadito il discorso e che poi il testo vive solo nel momento in cui viene interpretato, perché questo è il suo modo di essere, essendo un prodotto, diciamo, intenzionale, vive solo in questa intenzio che è un soggetto che si comunica a un altro soggetto. Allora, da questo punto di vista, un testo non ha mai finito di produrre senso, di consegnare il suo senso. Cioè l'interpretazione del testo non è mai chiusa, il testo è chiuso, cioè il testo è, ecco, finito, no? Ma quello che il testo può dire non è mai detto tutto. E può essere quindi continuamente rivisto e continuamente arricchito, perché? E non solo del testo biblico, no? Parlo quindi di qualunque testo, no? Perché? Ecco, perché credo almeno che una delle ragioni, forse ce ne sono anche altre, ma almeno una è questa, che il nostro capire qualunque cosa è sempre un situare al di dentro di determinati punti di riferimento. Allora, ogni nuovo punto di riferimento apre una nuova possibilità di capire, non diversamente nel senso di contrapposizione al capire degli altri, no? Ma nel senso appunto di cogliere, ecco, un'angolatura, un punto di vista che non era ancora stato vissuto, non era ancora emerso nella storia della comprensione di quel testo. Da questo punto di vista, ecco, senza voler fare una lettura giustificazionista della storia della teologia, perché verosimilmente ci sono anche delle letture sbagliate, ecco, eretiche o comunque, sai, anche lì poi eretiche bisogna poi andare ad agio, no? Perché poi per Lutero era eretico il tomismo, quindi, però diciamo, ecco, direi piuttosto, facciamo così almeno, per non far entrare una complicazione, no, sul carattere del cos'è l'ortodossia o meno, eh? Ci sono letture, ecco, più o meno adeguate, no? Che arricchiscono davvero più o meno l'interpretazione, la ricezione del senso. Però ecco, no, pur accettando questo più o meno, tutta la storia della teologia, si può dire, è un esempio di come la Bibbia sia stata, ecco, riletta non solo al di dentro di situazioni individuali diverse, eccetera, ma addirittura al di dentro di diversi universi culturali, e quindi ritrascritta in qualche modo in tutta una diversa concettualizzazione, no? Pensiamo al concetto di nuova vita, no? Di uomo nuovo, come era nella patristica greca in particolare, la traduzione del concetto di divinizzazione, come era nella scolastica, ma poi anche lì nella prima scolastica l'apparire del concetto dinamico di grazia, poi la metafisicizzazione del concetto di grazia, no? nella scolastica matura, no? Nel tomismo, eccetera, la messa in questione di questo nella scolastica tarda, in Occam, l'evento linguistico costituito da Lutero, proprio che rompe così, eccetera, eccetera, no? Oggi la nostra possibilità che noi abbiamo di ripensare la grazia, di ripensare sempre l'uomo nuovo, ecco, con una ricchezza, ecco, di categorie fenomenologiche dell'interpersonalità che non avevano né Paolo, né i padri, né Tommaso, né Lutero, né Schleiermacher, né Compagnia Bella. Per cui accetto in pieno la frase ambiziosa del padre Alonso quando questa mattina diceva: io capisco la visione di Ezechiele meglio di quanto Ezechiele l'abbia capita. Sono perfettamente d'accordo. No, noi possiamo capire, di questo tipo di capire, no? Che è in questo caso il capire riflesso e che organizza in un, non dico in un sistema, no? Ma organizza in un certo mondo di pensiero in funzione delle risposte alle domande che noi uomini d'oggi ci poniamo. Ecco, in questo senso noi possiamo capire meglio, comunque certo possiamo capire quello che non hanno capito le generazioni che ci hanno preceduto e l'autore stesso. Del resto il caso mi sembra abbastanza evidente, qui è quello cioè abbastanza evidente per alcuni, per altri no. Non ha molto senso chiedere a un regista cosa voleva dire col suo film, no? Sì, può anche servire, no? Può anche servire, ma non è che sia normativo quello che lui dice sul suo film. Normativo è il suo film, quello che lui voleva dire lo ha detto lì, non è quello che dice dopo di aver voluto dire. Quello che può aiutare, no? Così è. Ecco, beh, stop. Grazie, sì. Padre, ecco. Da questo discorso mi pare, no, che c'è una stretta connessione tra ermeneutica e questi modi nuovi di leggere la Bibbia, anche nella conferenza di ieri e anche adesso tutto il discorso. Quando per preparare anche questa giornata avevamo un seminario sui vari modi di lettura, abbiamo letto anche insieme Coret, no, come testo di ermeneutica, e lì mi è parso che quasi, non so se dico un'eresia filosofica, no, che anche quella ermeneutica di Gadamer, poi anche a livello di scuola, no, di Coret, sia una specie di strutturalismo. Tutto il linguaggio sono metafore locali. C'è il punto di vista, c'è la distanza, la vicinanza, il circolo, spirale, direi quasi che si può dire è una specie di, o un'altra terminologia. Solo a me mi è parso questi nuovi modi di lettura possono offrire anche un po' di indicazioni come devo fare, no, la comprensione qualcosa di circolare, anche fusione degli orizzonti, ma questi nuovi modi possono dare qualche indicazione. Così vorrei rispondere soprattutto a quanto ha spiegato già sulla tratti semantici. A me mi pare la lettura in genere sia qualcosa come vedere tratti semantici e soprattutto anche vedere tratti semantici nuovi. Lì mi pare tutto in quella lettura attiva. E da questo spiegherei anche, si può leggere un testo in ragione anche degli effetti. Ciò vuol dire, vedendo l'attualizzazione, per esempio, di un testo, mi fa scoprire tratti semantici inosservati fin lì. Forse anche nel testo ci possono essere delle ambiguità, per esempio se questo testo di Marco se possa essere vissuto. Se poi vedo, non so, nella storia dei santi che può essere vissuto, mi dà una certa spiegazione, mi fa vedere quel tratto semantico può essere vissuto. E questo mi pare non solo leggere in ragione degli effetti della Wirkungsgeschichte, ma mi pare anche così l'emergenza di senso nuovo, questa è la prima domanda, che anche la mia situazione può aiutarmi a scoprire dei tratti semantici inosservati. Nei discorsi del pontefice sulla non violenza mi pare che una certa situazione aiuti a trovare nel discorso della montagna questo impegno della pace. Per questo direi lo sviluppo di senso, perché scopro nuovi tratti semantici a partire dalla mia esperienza. E per questo anche l'incremento di senso, no? se bisogna trascendere il testo, anche tutto il testo. Vi direi quello che ha già spiegato il padre Alonso: se noi prendiamo lettura come qualcosa tra il testo e il lettore, allora mi pare che non si può limitare al testo, perché la spiegazione, no, è il termine di lettura che dice è qualcosa di interpersonale, e per questo direi bisogna trascendere in un certo senso anche il testo, non so, trascenderlo per l'esperienza personale, direi, ecclesiale, anche umana, in questo senso inteso anche, come ha detto il padre, no, come dialogo. E da questo direi trascendere il testo, che non è lì quell'oggetto, ma trascendere. E da questo, per la crescita in senso positivo, che era una domanda, lì darei piuttosto un esempio, no? Nell'Antico Testamento osserviamo una demistificazione della violenza. C'è il padre Lopin che ha scritto un articolo che dice: l'Antico Testamento demistifica la violenza mostrando anche l'altra parte, non solo che il capro espiatorio, come dire, concilia la comunità, ma lo fa vedere anche come quello lì si sente, non so, in Deutero Jesaja, nei canti del servo. Fa vedere, allora demistifica, in quanto mostra non è solo un aspetto che quello lì mandato fuori. E così direi anche, almeno ci mostra in un certo senso la demistificazione della violenza è qualcosa di positivo. Ma lì per questo, se la crescita è in senso positivo, direi mi limito a questo esempio. Grazie. Torniamo allora, se a volte hanno da replicare in qualche cosa. No, io vorrei dire due cose. Sono molti altri esempi per crescita del senso. Per esempio, come ha spiegato o ha recepito il dottore del quarto Vangelo di tradizioni sinottici, per esempio di San Luca, perché lui ha visto con gli occhi nuovi, ha visto il senso simbolico di tutte le cose, sia nei Vangeli di Pasqua, ma sia anche negli altri, per esempio la tradizione di Lazzaro o anche di questo cieco. Ma dall'altra parte, questo concedo a Padre Rizzi, non sono tanto contento con la formulazione parola peccatrice, cosa è un po' un pochettino più, ma davvero troviamo anche, penso, nel Nuovo Testamento quasi già tracce di una, come si dice, abschwächung o devoluzione del senso, per esempio quando una parabola di Gesù, non so come si dice, un profano, un Zeichenbaum, venne una storia. O se per esempio nella tradizione di Gesù è camminato sull'acqua, nel Vangelo di Marco, sta volevo passare così, e questa è la l'immagine del Vecchio Testamento, ma Cimateo manca questo. E Cimateo, e questa profonda sensibilità che era nel Marco, non c'è. E probabilmente anche nei molti altri tempi, per esempio anche Luca, per esempio la tradizione di San Luca su Pentecoste, per me è un po' unilaterale, perché lui capisce, per esempio, in questo Vangelo di Pentecoste, o questo racconto di Pentecoste, lo Spirito Santo soltanto come una forza ispiratrice. Ma questo che noi troviamo preso San Paolo o nel Vangelo di Giovanni, lo Spirito Santo come forza vivificatrice e perdono di peccato, non si trova nel racconto di Pentecoste preso San Paolo. E così abbiamo quasi una limitazione anche già nella tradizione, nel Nuovo Testamento, e probabilmente anche nell'Antico Testamento si ha molti esempi per questi, semplificazioni, non soltanto un increscimento, ma anche un decrescimento. Un'aggiunta a proposito della dialettica del testo e la comunità, è che in un caso culturale un testo configura la comunità, può darsi. Un testo importante, Promessi Sposi, ha avuto un influsso nella sensibilità di una comunità, cioè ha creato nella comunità una connaturalità con se stesso. Nel piano della fede, non soltanto abbiamo noi il dono della fede, che ancora è non è articolato, la fede è atteggiamento totale, ma abbiamo già anche una articolazione di quella fede attraverso una parola articolata che è il testo. Cioè, la comunità prima e la seconda, e la, non so, la 50 o 55, che è la nostra, è tale per effetto del testo. Cioè, il Vangelo ha configurato questa comunità. Quando questa comunità legge il Vangelo, non è da fuori. Porta già il Vangelo. E questo spiega, nel piano culturale e al piano di fede, per credenti, una connaturalità nel leggere, però evidentemente sempre è un testo viene letto come si legge la parola, cioè c'è la incarnazione concreta. Io vorrei replicare un po' in questo senso, non ho mai sentito in questo problema della funzione degli effetti per capire un testo nominare la categoria dell'aspetto profetico. Lo ritengo abbastanza interessante in questo senso, che il metodo storico critico, è chiaro, vuole decifrare un testo a partire anche dalla sua genesi, da ciò che lo condiziona nella storia passata. Ma se noi vediamo che i testi biblici hanno anche una dimensione non soltanto performativa, eccetera, appellativa, ma profetica, sono rivolti al futuro, allora diventa intrinsecamente necessario attendere anche luce dalla realizzazione delle profezie, quel famoso dialettica tra l'Antico e il Nuovo Testamento, per cui Cristo chiede luce alle profezie, ma anche le profezie si capiscono alla luce della realizzazione. E questo lo vedo soprattutto importante in ecclesiologia a livello ecumenico. Allora, nella fase attuale, per fare un esempio, i testi del primato del Papa e altri testi ecclesiologici non sono più, diremmo, almeno dei migliori ecumenisti, rifiutati, ma nemmeno essi si sentono di dire che ciò che da essi è derivato, il primato del Papa, eccetera, è qualcosa di strettamente omogeneo, come dicevamo nella nostra teologia classica, per cui è veramente il vero senso. Ma parlano, nei testi migliori, di una traiettoria che parte da questi testi e arriva alla storia successiva, per cui la storia successiva non è del tutto accettata come puro sviluppo, esplicitazione del testo, ma nemmeno come qualcosa di estrinseco e di nuovo, ma viene vista in una dimensione, diremmo, intermedia, è un compromesso, qualche cosa che dipende dal testo, ma supposto che il testo non sia un testo legislativo, indicativo, ma un testo profetico. E qualche cosa che nello stesso tempo è nuovo, ma ritorna al testo a illuminare. Questo volevo sentire, il perché magari questo accento fatto sul simbolismo non ha poi anche portato un'attenzione all'aspetto profetico del testo. Non so se loro... Sono d'accordo a questo punto, sì. Fabris. Da queste relazioni mi sono piaciute molto anche i contributi venuti adesso. Io distinguerei due aspetti. Il primo riguarda i metodi di lettura del testo biblico. Abbiamo sentito i 4 interventi. L'altro problema ermeneutico che è stato posto nelle domande, dove veniva fuori spesso quali criteri, è posto ieri da Rizzi al termine della conferenza relazione del professor Kremer. Riguardo ai metodi di lettura, resta come fondo, data la formazione nostra, il metodo storico critico, però alle sue origini, con Tubinga e Bauer, ha avuto grosse difficoltà ad essere accettato, anche se non incomincia con Tubinga, forse il tentativo di Simon o di non andare in porto, un campo cattolico, però noi oggi abbiamo un po' questo filone e su questo innestiamo un po' di strutturalismo. Là resta, io volevo chiedere stamattina, perché la lettura materialistica non ha avuto, non diciamo cittadinanza, si capisce per ragioni politiche, culturali e sociali, ma non ha prodotto granché in Italia, a parte alcune letture delle comunità di base, ma emarginate completamente per ragioni precedenti ancora alla lettura, al tipo di lettura biblica. Comunque c'è questo filone, ha detto, e sul quale vengono innestati gli altri come complemento, correttivo, eccetera. Credo allo stato attuale forse non è possibile fare una rivoluzione nel modo di accostare la Bibbia, tanto di questo l'altro ha tutto un suo rodaggio e ha prodotto anche qualche cosa e forse all'interno del metodo storico critico c'è spazio per far entrare anche gli altri o per verificarli, eccetera. Comunque questo per me è un problema interessante, noi esegeti in maniera particolare, perché dobbiamo lavorare col testo. Ma l'altro problema è il problema ermeneutico, che mi sembra il più grave attualmente, e dal momento che qui sono stati invitati anche cultori e persone esperte di altri settori, su questo terreno c'è, credo, il luogo, il momento della tavola rotonda, di un confronto. E il problema ermeneutico interessa il dialogo interpersonale, e allora qui quello che suggeriva il professor Hegel, tra il dialogo non è solo tra me e il testo, ma tra una comunità o un'esperienza che ha prodotto un testo e un'altra comunità che oggi legge questo testo. L'omogeneità nel cammino storico permette forse il dialogo. Se fossimo completamente estranei e avessimo solo un testo non veicolato da una comunità e non prodotto, per cui il dialogo è tra me e quell'esperienza che c'è là in Paolo, la comunità di Marco, la comunità dell'Esodo, eccetera, no? Questa contemporaneità non tanto a un testo ma a un'esperienza che è diventata testo, no? E il problema ermeneutico allora riguarda proprio questo dialogo. In base a quali criteri? Il criterio è prima di tutto di carattere culturale e l'altro è il problema della fede. E stamattina è stato detto, accennato, che dietro la lettura materialista c'è un'antropologia, c'è una concezione di storia, ma io ritengo che dietro il metodo storico critico sorto in Germania e prodotto ancora, con tutto il rispetto per gli autori tedeschi, ma lo stesso vale per gli anglosassoni, che anche i francesi, c'è un'antropologia, c'è un modo di vivere dei professori anche, che vivono in un certo luogo e spazio. Il Bello non avrebbe prodotto quel libro se non avesse avuto tutto il suo itinerario umano, spirituale, eccetera. Cioè l'antropologia che c'è dietro è prodotta anche nel modo come sono pagati, come vivono, che tipo di libertà hanno, eccetera, no? Ora, l'antropologia attuale in Italia in massa non è costituita da un'antropologia, diciamo così, medio borghese, anche se scriveva ieri Repubblica che gli operai sono capitalisti più degli altri come mentalità. Ma non credo che esista una cultura unica, c'è un'autorità culturale in Italia e credo ancora di più là dove vive la Chiesa sudamericana, asiatica, eccetera. E il problema ermeneutico è il dialogo con questi uomini che hanno questa cultura. Il problema è complicato ancora ulteriormente perché non è solo un problema di dialogo culturale, è il problema del dialogo con l'altro, cioè il problema di Dio e come viene vissuto il rapporto, il dialogo, la relazione vitale con Dio dentro queste situazioni culturali. Ecco, questo qui non so se era possibile, che non era la sede, ma il problema è che i criteri devono tenere conto di questa, che non è solo, diciamo così, la grande cultura che prodotta un certo metodo nel quale viene letto, ma il problema molto più della comunicazione della parola di Dio tramite un testo. Grazie, c'è qualche altro che vuol dire? Qui è emersa anche una curiosità, dopo la casomai Rizzi potrà rispondere, quella di sapere perché questa teologia materialista. Trentin? Anch'io vorrei riprendere questo discorso e in modo particolare la domanda che lei ha fatto, cioè del perché non si sia sviluppato questo senso profetico Io penso che siamo rimasti troppo tempo dentro a questa dialettica contrappositiva fra testo e parola, per cui a volte il testo ha mangiato il soggetto, no? È andato di tramorta, e altre volte oggi, soprattutto nel presente, la parola, interpretazione viva, attualizzante, si mangia il testo, cioè si mangia l'oggetto, creando delle unioni un po' immaginarie, fusionali, diremmo con un linguaggio un po' psicologico, psicoanalitico. Ci vuole un quid tertium che rompe questa dualità, no, tra testo e parola. E io penso che che è il problema che è impostato male, come mi sembra che aveva detto anche il professor Alonso, e cioè che forse invece di parlare di testo dovremmo parlare di parola scritta in contrapposizione con una parola viva, no? E il testo è questo quid tertium che ha un valore di segno, di simbolo, cioè o come un mondo fatto di segni e di simboli che mi mette in una realtà, ecco, che mi tiene quindi aperto al passato, quindi in dialogo col passato, con gli autori che vogliono parlarmi dal passato, dalla storia, ma che mi deve tenere aperto, ecco il valore del testo, anche con la storia che viene dal futuro, e cioè con tutte quelle interpretazioni, ecco, che vengono date oggi, che verranno continuamente date a questo testo, che sono anche questa parola di Dio che viene dal futuro e non dal passato. Qui ecco l'importanza dell'esperienza intesa come esperienza ecclesiale, cioè laddove allora il fondamento di questo dialogo è la Bibbia, il testo biblico, il testo scritto biblico, ma anche l'importanza di tutti gli altri fatti che costituiscono la storia, siano questi fatti scritti, cioè testi, siano fatti non scritti ma che avvengono, no? Ecco, in altri modi, e che costituiscono appunto la storia dell'umanità. Per cui ecco, direi che anche la storia, in questo senso, che viene dal passato ma anche dal futuro, mi aiuta ad arricchire, ecco, se noi però utilizziamo il testo biblico dentro alla Chiesa e non presumiamo di usare la Bibbia come fondamento di una storia universale o come punto di partenza per costruire una cultura universale, una cultura cristiana universale che non può esistere a livello di cultura, ma solo a livello di spirito, se vogliamo usare la parola del professor Kremer. Diamo la parola al professor Roger. Di questo terzo, di questo punto particolare che sta tra il soggetto e il testo, sento di dover dire una cosa che ho sentita fino da ieri, così nell'aria, e anche stamattina molto fortemente quando Alonso ha parlato, cioè non è forse la liturgia la sede eminente di tutto questo, non vorrei dire esclusiva, ma la sede a cui conviene guardare come il caso più paradigmatico, il caso più caratteristico e più rappresentativo. Facciamo caso anche a quello che è stato detto prima, appunto, testo è una cosa, parola viva è l'evento che succede quando appunto insomma viene letto. Ora la Costituzione liturgica ha almeno due volte un'asserzione che mi sembra fondamentale a questo riguardo, quando dice Dio parla al suo popolo. In quel mentre in cui le scritture vengono lette nella Chiesa. O dice presens adest in verbo suo, la presenza di Dio, del Dio parlante in senso attuale, si quidem ipse loquitur, dum in ecclesia scritture legunde. Lì dentro scatta il discorso parlante di Dio. No? E questo si collega anche con quelle bellissime cose che il padre Schoeckel diceva riguardo dei segni e dei simboli e così, no? Che nella liturgia continua. La liturgia è nata da quello. Se qualche cosa è la liturgia, è il continuare di quei segni profetici col loro contenuto, no? Purtroppo anche gli operatori in campo liturgico, io mi domando tante volte se a questo punto nodale di ciò che è la liturgia siano sufficientemente attenti, oppure se l'attenzione non si vada anche adesso negli sforzi più moderni della liturgia, spostando su aspetti direi pedagogici e pastorali più che contemplativi, nel senso accennato prima. Comunque mi sono permesso di fare questo intervento perché ho l'impressione che questo discorso, cioè non si può parlare di Bibbia senza parlare di liturgia, non si può parlare di Bibbia senza, e ho sentito, non è da far colpa a nessuno, indubbiamente se in una sede come questa, vero? Insomma il discorso si è mantenuto sulla Bibbia, però ecco, credo che bisognerebbe che il riferimento alla liturgia entrasse sempre quando si toccano queste cose, e da questo fronte ne verrebbe anche un aiuto non indifferente ai liturgisti a trovare la loro stella polare, no? Padre Alonso ha chiesto se di poter rispondere. Avrei due osservazioni da fare a questo discorso sulla liturgia. Vediamo un momento. La prima è semplicemente ricordare il testo di Monsignor Edelby a nome degli orientali, della teologia orientale nel Concilio, dove lui dà questa magnifica definizione della ispirazione, sempre in un contesto rigorosamente di fede. L'ispirazione è la consacrazione della historia salutis sub specie verbi. Consecratio historiae salutis sub specie verbi, aggiunge, che non si può separare dalla consacrazione del corpo di Cristo, riassuntivo della historia salutis, sub specie panis et vinum. Pertanto, come la consacrazione sub specie panis et vini avviene con la epiclesi, l'invocazione allo Spirito, così quella consacratio, historia salute sub specie verbi, deve avvenire con la epiclesi, l'invocatio Spiritus. Penso che una descrizione teologica profonda e alta. Cioè, pertanto, è la consacratio, historia salute sub specie verbi, parallela, ma non soltanto parallela, ma legata alla seconda Corpus Christi, che è la storia salutis, riassunta su specie panis et vini, e la necessità della epiclesi per tutte e due. In quel senso, il posto privilegiato della Bibbia, quando Dio parla, è la liturgia, privilegiato. Però, adesso faccio il secondo rilievo, è il seguente. Nella fenomenologia della religione, abbiamo di solito parola e rito. Si fa qualcosa, la parola lo spiega. Si dice qualcosa e si fa la pantomima, la rappresentazione. Così che in quella concezione classica del culto, la parola entra nel cerchio magico del parola-rito. È intrinseca a tutto questo gioco del culto. Con il pericolo della cosificazione, della manipolazione, e tutto, anche la parola è un operare, e l'operare porta al manipolare. Ora, nel Vecchio Testamento, contro quel pericolo di assumere la parola in una manipolazione, in un gioco cultico, sorge una parola inassimilabile, immanipolabile, esterna, la parola profetica, che dall'esterno critica e vuol rompere il circolo vizioso, magico, e farsi sentire come parola di Dio. Questo è documentato nel Vecchio Testamento. Adesso prendiamo l'esperienza cristiana. Allora, io dico, parla Dio, pertanto è parola profetica. Quando io leggo la Bibbia nella Chiesa, sempre è parola profetica. Attenzione, deve essere parola profetica. Ma la grande tentazione è prendere la rete, in una rete, quella parola profetica, e domesticarla e farla diventare un momento più del gioco, della manipolazione. E perde la dimensione profetica. E allora, l'Eucaristia è un alibi. è un alibi, è una fuga. Invece, nell'Eucaristia deve essere il momento privilegiato di una parola di Dio esterna a noi e sempre con il Signore, sempre, cioè con quel senso di trascendenza che mi può confrontare, che non la possiedo io. E qui questo mi porta al senso che l'Eucaristia non è l'alibi, il pericolo, che deve essere questo, che ha quella connessione con la vita, e il quale è dato nel fatto che qui si commemora un sacrificio reale, una vita per amore, per fare qualcosa concreto. Sono i due punti, all'affirmativo, ma attenzione, attenzione, perché di fatto vediamo che oggi abbiamo in gran parte domesticato la parola di Dio. Parola di Dio, ti illudiamo Signore, e non capita niente. Volevo dire. La curiosità, non saprei proprio, andrebbe a chiederlo al Diocesete, probabilmente un po' ha influito da parte di Bero il fatto che della sua polemica, no, nel suo taglio polemico irritante, un po' anche della durezza della sua presentazione, quelle prime 50 pagine che sono scoraggianti, no? Anche se lui dice che si possono saltare e andare subito agli altri. Ma probabilmente c'è anche qualche altra cosa che ho letto, e non solo tra le righe, di alcuni interventi di tecnici, cioè di esegeti, no? Non solo tra le righe, ma anche proprio dichiarata. Ecco, il fatto che non accettare il profano, no? Cioè che in fondo non è un uomo del mestiere, ecco. Velo non è un uomo del mestiere, no? Cioè è uno che, va bene, usa lo strutturalismo e non è uno strutturalista, dove ha studiato lo strutturalismo, no? Parla di Formgeschichte così e dove ha studiato queste cose. Addirittura, beh, poi si vede che non sa il tedesco, no? Nella sua bibliografia non c'è, cioè l'unico autore, l'unica opera di Bultmann è citata in traduzione inglese, mi pare così. E nessun altro, gli autori tedeschi citati sono più citati in traduzione. Il greco lo sa, vabbè, così, no, proprio, vabbè, ecco. Per cui una dice, ma insomma, questo qua non è serio. Ora qui io confesso, forse perché anch'io non sono un uomo del mestiere, ma credo proprio che, ecco, che non si debba confondere tutto l'oggettività del testo con il primato del testo, con il primato del metodo o anche dei metodi, no? Dei metodi. Voglio dire che in fondo anche dalle, ecco, sentivamo stamattina di Agostino o così, i padri, va bene, a parte che i greci avevano almeno, no, la conoscenza linguistica del testo, no? Ma certo i padri latini non erano neanche quella, allora non erano uomini del mestiere nel senso in cui lo sono gli esegeti moderni, no? Di nessun mestiere, ecco. Allora mi pare che pur, detto, ribadendo tutta la necessità di avere strumenti il più possibile anche oggettivi, trasmissibili, tecniche slegate anche dall'individualità e quindi insegnabili, eccetera, eccetera, eccetera, resta il fatto poi però che sono tutti strumenti e che uno, pur usando tutti questi strumenti, può cavar fuori un ragno dal buco, può partorire il ridiculous mus, no? Così. Perché ecco, ultimamente appunto, chi legge è sempre il soggetto. Di nuovo Schleiermacher diceva, sì, si può inserire il testo in tutti i contesti sempre più ampi, ma tutto questo è solo preliminare al vero atto della comprensione, che lui diceva è una divinazione, era un romantico, no? La divinazione. Lasciamo stare pure la divinazione e diciamo, ci vuole quella che il vecchio padre Lonergan vive ancora, l'insight, no? Ci vuole appunto capire, è capire e non è dedotto, no? Il capire non è mai dedotto, non è mai il semplice risultato conseguente è necessario della corretta applicazione dei metodi, no? Non è mai, metodi arrivano lì, poi a un certo punto uno capisce. E così anche viceversa, uno che forse abborraccia un po' di metodi perché non li ha imparati bene, dico, può anche tirar fuori, credo, no? Avere, ecco, del senso delle connessioni nel testo, se ci si cala dentro, appunto, se ci... Ecco. Ora, io ho avuto l'impressione che Belo, pur dicendo tante cose inaccettabili dal punto di vista, io dico, della cristologia, eccetera, eccetera, no? Però ci abbia veramente camminato dentro e anche con molto gusto. A me ha dato proprio molto gusto spirituale, no? In tante sue pagine, molto gusto, cioè, di una lettura che veramente ritrova aspetti che fino allora non avevo ritrovato. Io ho letto quasi simultaneamente Belo, così per studiarlo un po', e il Taylor per tradurlo. Tra l'altro mi hanno detto che hanno fatto una stroncatura di quella traduzione, ma non l'ho trovata. Non so perché. Comunque, no, il Taylor, il grosso commento al Vangelo di Marco, ecco. E così, vabbè, io dico che personalmente ho imparato, credo, ecco, d'aver imparato di più su Marco, no? Da Belo che dal Taylor. Con questo non voglio affannare, no, tutto quello continuo appunto spezzare tutto, no? Così, questo e con infinito. Sì, sì, va bene, ma allora ecco quello che cercavo di dire appunto è. No, questa era la risposta, ma perché Belo non è entrato? Probabilmente perché non è addetto ai lavori e così forse gli addetti ai lavori hanno sempre una certa prevenzione. Così. Io ho detto fino alle 6:30, però se qualcuno, vedo che intanto salutiamo quelli che partono, se qualcuno è stanco faccia fermare. Insomma, tenga conto di questi dati, no? O esiste forse la mia ignoranza, non lo conosco. No, lui ha detto che il metodo storico critico ha mostrato che ci sono tante opinioni, poi ha detto che nello strutturalismo ci sono tante di nuovo. Come si fa a ottenere? Cosa diceva lì? Arrivo a Sant'Agostino, che è un letterato, un uomo che è veramente del mestiere del scrivere, sa cosa è scrivere. Si propone il problema della molteplicità dei sensus, del multiplici senso, un famoso problema, no? E lui ragiona dalla sua esperienza. Dice, non dice io, dice, se uno scrittore potesse in una pagina dare una pienezza, una ricchezza di senso, di grande cosa, sarebbe contento di dire soltanto una cosetta così. E pensiamo che Dio e che lo Spirito abbia voluto darci poco, se poteva dare molto. Questo dice un uomo che sa cosa è scrivere e che vuol dire molto, no? Allora, forse la molteplicità è da accettare perché non si esaurisce. Deutero Isaia è inesauribile, Giovanni è inesauribile. Invece, quello che a me secca molto, che non accetto, e sono le 40 opinioni sulla Genesi. Questo versetto è la prima mano, la seconda mano, la terza mano. Va bene, ma cosa dice il versetto? Ma quando c'è diversità che mi dicono guarda questo aspetto, guarda questo codice, guarda l'elemento geografico, come, e ognuno mi fa vedere, io benvenuta a quella molteplicità, do un abbraccio a Sant'Agostino con la sua esperienza. Leonardo, la pratica pastorale nelle nostre comunità, quale tipo di lettura privilegiare? Nelle nostre comunità in cui non si possono presentare tutti i tratti semantici di un dato brano evangelico in base al metodo storico critico strutturale, credo che fanno una scelta, diciamo, e non potrebbe, ecco, io mi chiedo, essere la lettura ideale non tanto quella che coglie tratto semantico principale, viaggi collaterali, ma quella che coglie il tratto semantico che rimette in situazione, cioè che corrisponde meglio alle esigenze attuali della propria comunità che deve vivere il messaggio e quel dato messaggio. In altre parole, partiamo dal testo critico, dallo strutturalismo per mettere in risalto nella lettura comunitaria i vari sensi principali, secondari, collegati, eccetera, o partiamo dalle esigenze pratiche della comunità da indagare in situazione, per vedere quali che sono e in base a queste esigenze fare la domanda al testo che risponda a quelle esigenze. testo allora magari potrà rispondere con un tratto semantico secondario, non dico per uno che non c'è, ma che è quello valido, che è quello che vale in quella situazione, quindi fare una lettura di questo tipo è valido o no? Sei tu l'interpellante. Se posso, una mia, almeno come cerco di fare, no, è quello che in un lavoro pastorale insisto sempre sulla competenza del lettore. Su che cosa è competente il lettore così cristiano? Quello secondo me è competente delle sue esperienze. Per questo direi anche tutte le domande, no? Quello è un genere, di fare delle domande a cui lui possa avere una risposta, anche se personale, per esempio, quale nel tratto semantico, no, quale tema così, ti colpisce particolarmente. O che cosa ritieni particolarmente utile di questo? Così non è, come dire, il testo, forse il tratto semantico importante, ma quello che corrisponde. Poi dico sempre, per la competenza direi tutto l'educazione dei cristiani, che la loro competenza, che si possono esprimere, tratti semantici, in parte ha fatto anche quello, via Tante di Gray Mass, no, quello schema, l'ho pubblicato anche con un lavoro per i cristiani, secondo quanto ho saputo, va benissimo, sono delle domande facili, chi fa qualcosa, che cosa desidera, chi è l'opponente, chi lo aiuta, mi pare uno schema molto elementare, facilissimo, e poi dico adesso tu dove ti metteresti in questo schema attenziale. Mi pare sono delle domande che si rivolgono alle competenze del lettore, così può essere fatto. Poi ritengo sempre anche in questi aiuti l'esegeta debba dare qualche informazione, per esempio lì sul tratto semantico più importante, forse qualcosa sul Sitzimleben, ma io direi tante volte basta anche domandare al lettore cosa vedi di importante, cosa vedi, come ha detto il professore, no? Alle volte basta fare delle domande, tu che cosa vedi lì o per una casa, quante finestre ha o dov'è la porta, così quanto è alta. Questo genere di domande per il tratto semantico principale. Allora, possiamo concludere e questa volta io devo dire un ringraziamento soprattutto a Monsignor Roger, quando lui ha voluto ringraziare me, sapeva che io sono superbo, quindi adoperavo tutti gli elogi e sa che io accetto con le caramelle di elogi, so che invece lui è umile, lo dico soltanto grazie di tutto quello che ha fatto. E un grazie a tutti i presenti, soprattutto alle competenze che si sono degnate di sedersi accanto agli inesperti, ai lettori, eccetera.